ricominciamo una dritta e una rovescia, così vedi la schiena come... Cioè, io con i piedi di qua, lei con i piedi là, così vedi due movimenti. Se ci riprendi tutte e due, vedi... Come vuoi, ok? Per, va bene. Penso io, no? Che dici per... Perché così vedi la torsione. Cioè, lei vede il tuo viso, che si gira sempre di più, e la mia torsione dietro... Un movimento più completo, secondo me. A vedere, dici. Tu adesso se ti prendi, riesci a prenderci tutte e due, mi prendi di una volta. No, mettiti giù e devo vedere. Oh, perché se prendi una volta o una sola, allora non è importante. Posso? Perché sennò non vede mai il fatto che migliora, ci prende sempre la schiena. Ma più o meno riesco a vedere tutte e due, magari a pezzi, ma riesco a vedere poi, tutte e due. Poi adesso è più, un po' più in angolo, per cui... Perfetto, dai. Allora, adesso facciamo la stessa sequenza, vi siete riposate, ci siamo fermati un attimo, abbiamo fatto la sequenza a destra. Adesso rotolate sul fianco che vi piace di più. Ah, scusate, non ho registrato. Allora, siamo supine, ci stiamo riposando. Adesso abbiamo appena finito la sequenza destra. Da supine adesso vi sedete sul fianco che vi piace di più e arrivate con le gambe piegate. Con le gambe piegate come prima, tutte e due le ginocchia da una parte. Perfetto. Adesso, nel fare il movimento, prima di farlo a sinistra, cominciate a muovere le ginocchia tenendo fermi i piedi a destra e a sinistra. E osservate come fate il movimento, cosa succede. Allora, portate le ginocchia a destra e siete sul bordo esterno del piede destro e interno del sinistro e viceversa quando muovete le ginocchia a destra. Ci siamo? Osservate cosa succede nella schiena quando fate questo movimento e cosa fa il bacino. Cosa sentite? Ovviamente la rotazione dei fianchi che si alzano da una parte all'altra, apertura, lombare. Vi sento di venire avanti o no? Sì, mano a mano sì, il fianco si alza sempre di più senza... Ok, quindi state camminando avanti sul pavimento? Allora, vedete di trovare il modo di farlo senza venire avanti. Perché per Fernandez un movimento è appreso quando è reversibile. Il che vuol dire che quando voi andate da una parte all'altra, in teoria potreste stare ferme sedute su quel posto. Allora, cos'è che state facendo? Che vi impedisce di stare ferme su quel posto. E provate a farlo, poi dipende dalle persone, però si può fare anche senza mani. Quindi ci sarà qualcuno che può farlo senza mani, senza l'appoggio, qualcuno che ha bisogno di appoggiare una mano e qualcuno che ha necessità di appoggiare tutte e due le mani. Senza mani non cammino, io cammino invece, vado sempre più avanti. Cos'è che è necessario fare? Osservatevi quando lo fate. Perché l'altra forse si sposta un pochino avanti quando ti... E quindi cammini per forza, ma se torni... È svincolare il movimento dei femori, cioè l'articolazione dell'arto dal bacino. Quando torni non si ferma, provami un attimo. Ho premuto, si Sia questo, ma questo. No, questo. Ok, adesso l'hai fatto ripartire. Così allora non era partito come adesso. Questo è in pausa. Così è in pausa. Ma mi dà lo stesso il tempo? No, scusa, adesso sta registrando, sì. E così è in pausa e lo rifai partire. Ah, ok. Si vede che però molto poco. Bene. Allora, cos'è che fa sì che voi camminiate avanti? Allora, io ho trovato che non cammino se quando torno vado indietro con l'anca. Se invece mi fermo prima, faccio spazio. E infatti. Giusto? Infatti. Se voi fate attenzione, vi accorgerete per esempio quando andate verso destra che il ginocchio destro si muove verso sinistra e un po' più avanti. Girate verso sinistra. E adesso il ginocchio destro vedete che va un po' più in giù. Ora, per non camminare avanti, quando tornate potete immaginare che una persona vi spinge dal ginocchio destro il femore indietro, spingendo l'anca destra indietro. Sì, quindi questo. Cosa succede? Che vi incurvate, siete costrette quando siete al centro a fare una grande gobba. Provate? Sì. Siete molto in flessione quando siete al centro e in torsione e estensione quando siete di lato. Quindi vi incurvate tanto perché le anche, prima una poi l'altra, vanno molto indietro. E continuate. Ok, questo conviene farlo fare un bel po' di tempo alle persone perché non risulta facile. Ci sono persone che spostano i piedi. Sì. Invece che tenere il piede fermo, passando dal bordo interno al bordo esterno, invece che muovere le ginocchia e il bacino, spostano i piedi di qua e di là. E io cammino lo stesso, però. Ciao! Ma va bene, ma poi pian piano vedrai che ti viene. Bene, adesso, rimanete con le ginocchia, girate verso sinistra e facciamo l'intera sequenza di prima verso sinistra. Quindi tutte e due le ginocchia a sinistra, ginocchio destro appoggiato sulla pianta del piede sinistro, mano sinistra appoggiata a terra accanto a voi, sollevate il braccio destro e lo piegate davanti a voi e guardando, tenendo gli occhi verso il braccio destro, ruotate verso sinistra e tornate e osservate come lo fate e cosa muovete. Osservate se respirate. E può essere interessante anche sentire come di per sé viene da questa parte. Può essere che avendolo fatto a destra vi risulti da questa parte più semplice. Fin dall'inizio. Può essere come può essere, no, questo dipende. Riposate un attimo il braccio, dopodiché fate la stessa cosa sollevando il braccio piegato davanti a voi e arrivando a girarvi fin dove potete con gli occhi chiusi. E quando siete arrivate, osservate se state guardando il punto che avete preso come riferimento all'inizio oppure no. Ma sono infinita, come mai arrivo avanti adesso? Ho premuto il rosso. Quindi hai stoppato. Adesso stai registrando, sta andando avanti il tempo. No. Ok, sì, perché sei in pausa. Cioè, tac. Sei bloccato. Spiegami, vediamo. Dai, no, dovresti schiacciare un po' di più. Adesso va. Ok. Ok, allora occhi chiusi. Col braccio destro sollevato davanti a voi, girate ancora a sinistra ed arrivate fin dove potete senza fare un movimento sotto sforzo, aprite gli occhi e guardate se siete riuscite a girare un pochino di più rispetto a prima con gli occhi aperti. L'ho fermato adesso, faccio dei casini. Allora, sei? Adesso l'ho fermato, quindi sarà un altro, presumo. O è lo stesso? Adesso lei... Perché io premo questo e continuo ad andare avanti. Premo quello sotto e continuo ad andare avanti. Ok. Niente, lo bisogna fare adesso, ne fai un altro. Allora, quando parto premo qua. Qua, sempre qua, tu fai stop, fai e la pausa? Qua. Sempre qua. Ma no, non si ferma. Sì, guarda, sta andando, pausa, fermato. E fa andare? Perché te lo fa? Perché forse schiacci un po' più, o tu schiacci troppo, forse rimani troppo in pressione. Ok, aspetta che te lo guardo. No, figurati, questo lo cancelliamo. Rifacciamo tutto, dico ok. No, beh, vai avanti, non ti preoccupare, facciamo un volume, se serve a te quella sequenza. No, quello va bene, va avanti? Sì, perfetto. Perfetto. Benissimo, allora di nuovo, allora abbiamo fatto verso sinistra, muove le ginocchia di qua e di là, abbiamo visto che per non camminare avanti conviene muovere bene indietro. L'anca, adesso siete con le ginocchia girate a sinistra, piegate il braccio destro, girate verso sinistra con il punto di riferimento, vedete, fino a dove riuscite a girare. E poi lo fate una volta con gli occhi chiusi e vedete con gli occhi chiusi se riuscite a girare a sinistra di più o di meno. Dopodiché, di nuovo, lo fate con gli occhi aperti e vedete quanto riuscite a girare. E quando avete bisogno di fermarvi, vi riposate. Ok. Allora, dopo aver mosso le ginocchia a destra e a sinistra, aver sollevato il braccio destro, aver girato verso sinistra e poi averlo fatto con gli occhi chiusi, adesso l'avete fatto di nuovo per vedere la differenza, dopodiché sollevate il braccio destro davanti a voi, girate a sinistra e rimanete girate a sinistra. E questa volta ruotate solo la testa avanti verso destra varie volte, quindi tutto il corpo sta ruotato a sinistra e la testa piano piano gira verso destra e ritorna. Osservate se state respirando. prima di posare. Ok, adesso ho bevuto. Non sono negata, stai. Dai, ce la facciamo. Il bello piede. Wow, sembra un muscolo. Adesso risollevate il braccio destro davanti a voi, girate verso sinistra, rimanete, girate a sinistra e questa volta muovete verso destra semplicemente gli occhi. E di nuovo tornate al centro e due o tre volte ruotate col braccio destro sollevato verso sinistra, osservando quanto girate. Perfetto. Adesso, sempre sollevando il braccio destro, con le ginocchia girate verso sinistra, ginocchio destro sotto la pianta del piede sinistro, o ruotate a sinistra. Rimanete ferme a sinistra e ruotate avanti solo il torace che si trascina per il gomito. Quindi la testa sta a sinistra, mentre torace, spalla e gomito destro o ruotano avanti e torno. Fate attenzione ad evitare che sia il gomito che si muove da solo e va indietro, ma il gomito sta fermo ed è trascinato dal movimento del torace. Continuate piano piano, respirando, osservando come tenete la bocca, facendo attenzione a come passa il movimento piano piano in tutto il corpo. E vi riposate, vi potete sdraiare. Allora, adesso vi siete riposate a sufficienza, dopo esservi riposate, rotolate sul fianco e ritornate sedute con tutte e due le ginocchia verso sinistra. E questa volta mettete entrambe le mani appoggiate a terra a sinistra. E cominciate lentamente, come abbiamo fatto dall'altra parte, a girarvi verso sinistra con la testa e potete fare il movimento in tre modi, o partendo dalla testa fino a sentire che si solleva l'anca destra, o partendo dall'anca fino a che sentite che si ruota anche la testa verso sinistra, o tutti e due insieme. Dicevamo che a seconda di come è la muscolatura della persona si comincia da una parte all'altra. Chi avrà blocchi in basso comincia dall'alto e viceversa. E sentite come questo movimento dell'anca piano piano piano piano passa a spirale lungo tutta la colonna vertebrale. E l'idea non è di arrivare al massimo, vedere di più, quanto ascoltare come dal bacino, vertebra dopo vertebra, arriva alla testa o viceversa, senza mai forzare, osservando se respirate, se tenete la bocca morbida. vi riposate un po', dopodiché provate di nuovo a sollevare il braccio destro appoggiando il sinistro a terra e vedendo quanto riuscite a girare verso sinistra. Ok, adesso appoggiate la mano destra sopra il capo col palmo e lentamente inclinate la testa a destra e a sinistra. Come dicevamo prima, la mano è leggermente appoggiata, non tira la testa e il collo, ma dà l'input in modo che man mano sia tutta la schiena a muoversi descrivendo una C a destra e a sinistra. Quindi il collo è morbido, non viene tirato, la mano è solo appoggiata e quando inclinate la testa a destra, il gomito destro va verso l'anca destra, quando inclinate la testa a sinistra, il gomito destro si allontana dall'anca destra. Vi riposate un po'. Sei contenta di questo modello? Sì, molto felice. Lei deve sempre, ha sempre le idee dell'ultimo momento. Riesce a... Mi ricordo che quando sono andata a fare l'attese, quelle volte che siamo visti, tu eri tutta contenta perché così di passo, dicevi. Che bello, così di passo. E mi hai fatto scoprire il sito del Feldenkrais dove dentro c'era il mondo, ti ricordi tu? Quello della IFF, quello americano. C'è un sito americano che dopo lei mi ha tradotto tutte le... perché è tutto scritto in inglese, mi ha tradotto tutti quanti studi scientifici che non c'erano neanche in Med Pub, neanche all'università, non c'era niente. Lei è riuscita a scovarmi attraverso questo sito degli studi sulla scoliosi bellissimi. Ma ci sono ancora? Non mi ricordo più. Sì, ce li ho io. Ma sì, c'è ancora il sito, vero? Sì, la IFF c'è sempre. È il sito dell'Associazione Mondiale del Feldenkrais, dove c'è di tutto di più. E lì andiamo in certo. Tanto che ti perdi anche talmente. Non mi ricordo neanche di aver fatto questo, degli esercizi anche, degli esercizi... Non lo so. Non ho idea, magari qualcuno ha fatto delle cassette, o magari qualcuno ha fatto degli studi, non lo so, perché guarda, ti dico la verità, non guardo mai, sono talmente tante le cose che non... Devo andare in cerca sulla mia tesi, che forse qualcosa c'è anche, perché avevo fatto lo studio sulla lombalgia, ti ricordi? Sì, certo che mi ricordo, ma non mi ricordo che ti avevo tradotto delle cose, so che l'avevo guardato sul sito. Bellissimi quegli studi là, bellissimi proprio. Vabbè. Dai. No. Bene, allora adesso risollevate il braccio destro, lo piegate, lo mettete davanti a voi e ruotate verso sinistra e ritornate al centro. Vedete quanto girate rispetto a prima, la mano sinistra è sempre appoggiata a terra. Ok, e adesso possiamo provare i due movimenti che avevamo aggiunto, quindi appoggiate l'avambraccio sinistro per terra, non più la mano, e infilate il braccio destro nel buco tra l'avambraccio sinistro e il corpo, in modo da ruotare verso sinistra infilando la mano in quel buco e il torno. E molto lentamente continuate infilando normalmente giù sull'avambraccio senza tornare sulla mano, state sempre con l'avambraccio sinistro appoggiato e ruotate a sinistra e ritorno, ruotate a sinistra e ritorno. Ok, e adesso rimanete ferme a ruotate sinistra col braccio dentro il buco formato da corpo e braccio sinistro e muovete il bacino e l'anca destra in su e in giù come per ruotare ancora di più a sinistra. Quindi l'anca sinistra si solleva da terra ancora di più in modo da aumentare quel movimento a spirale nella colonna vertebrale. Ok, ed ora vi riposate, vi sdraiate, supina, pancia in su. Osservate come state, appoggiate a terra. Dai, la gamba era il fianco destro che si alzava, non quello sinistro. Ho detto sinistro? Hai detto sinistro. No, destro intendevo. Sì, sì, destro. Sì, destro, okay. Destro. Perché sinistro era fermo. Però sai che io lo sento, io ho l'anca destra un po' bloccata perché ho un legamento indiano un po' fermo un po'. E di là mi riuscivo molto meglio. Vabbè, certo. Cioè, allora, scendo giusto il lato facile. Vabbè, in genere è sempre così, si scende. Lo scendo proprio giusto. Poi ho sentito differenze. Io grosse differenze non le ho sentite. Appena appena più facile a destra, mi sento abbastanza simmetrica. Sì. No, io proprio molto più facile. Forse le spalle, con le spalle e il collo giro meglio a destra che a sinistra. Beh, può essere che tu hai la parte alta che è più. Bene, adesso da supine, vi siete riposate a sufficienza, ritornate sedute con le ginocchia dal fianco che volete. Ok, avete tutte e due le ginocchia verso sinistra, allora ruotate, sollevate il braccio destro, ruotate verso sinistra, fin dove potete senza forzare, ritornate al centro e quando siete al centro staccate la mano sinistra, continuate verso destra, girate verso destra, girate le ginocchia a destra, appoggiate la mano destra a terra, mano destra a terra, sollevate la sinistra e continuate a ruotare con la mano sinistra a destra. E poi riprendete, andate con la testa e il gomito sinistro verso sinistra, lasciate si muovere le ginocchia verso sinistra, appoggiate la mano sinistra e girate completamente con tutto il corpo il braccio destro e sinistra. Quindi unite i due movimenti di prima e osservate se sentite differenza tra un lato e l'altro, ma soprattutto se riuscite a non camminare avanti o se lo fate muovendo il bacino, perché guardate che prima dicevamo che se si fa un movimento reversibile, vale a dire lo stesso dell'andata e ritorno, non si cammina avanti. Ok, adesso lasciate andare, vi sdraiate e riosserviamo gli appoggi. E cominciate ad osservare come sono messi adesso i piedi, le dita dei piedi, i talloni, i polpacci. Quanto distano le ginocchia, le cosce da terra. Come appoggia il bacino, destra, sinistra. stessa, tutta la colonna vertebrale partendo dal coccige e arrivando fino alla testa. Quindi come è messo il coccige, l'osso sacro, l'arco lombare, le vertebre toraciche, le costole, le scapole. Collo, la testa, la bocca e poi come sono messe le spalle e le braccia. Dopodiché lentamente passando dal fianco vi alzate in piedi e quando siete in piedi rimanete fermi un attimo osservando come state in piedi. E provate a ruotarvi a destra e a sinistra. E poi camminate un po' all'indietro e un po' in avanti. Ricordatevi che funzionerebbe molto meglio ogni volta che portate le persone nel mondo normale, quando camminano, all'inizio funzionerebbe meglio farli camminare all'indietro. Perché? Perché si rompe lo schema abituale del cammino. Altrimenti se si fa camminare avanti, cosa succede? Che subito la persona ritorna nel suo modo automatico di camminare, invece facendole camminare indietro per un attimo cambiano, rompono gli schemi. Mm-hmm. Beh, comunque viene registrato qua. Sta registrando qua. Qua. E poi vi fermate anche e vi ruotate a destra e a sinistra. E osservate come viene, come vi ruotate e da che parte portate il peso. Ok. Allora,